Bisogna stare attenti, se mi investe mi uccide. Ok, buongiorno e benvenuti da parte mia, sono molto molto contento di essere qui e soprattutto sono contento che voi siate qui, altrimenti era inutile che anche io ero qui. Questo è per essere onesti, è molto bello vedere che abbiamo tutti quanti voglia di ascoltare, di vivere la parola di Dio. Quello di cui ci interesseremo questa mattina è qualcosa di molto semplice, sono le sfide. Quante volte è successo, a me è successo tante volte, anche perché molte volte parlo senza pensare, ma credo che non sono il solo, a cui è successo magari di dire qualcosa, trovarmi davanti a una sfida, trovarsi davanti a qualcosa di difficile da fare, e per le parole che si è dette si è costretti anche a subirne le conseguenze. È successo a qualche altro in mezzo qua? Poche persone, non ci credo. Voglio mostrarvi un filmato e lo guardo anche io. Bravo Stefano! Non ci sarebbe niente di speciale in quello se non fossi stato io. Ma la domanda è: cos'è che mi ha portato a essere lì appeso come un salame ad arrampicarmi fin lì sopra, che io non ci volevo neanche andare? È stato il discutere a casa con i miei figli. E papà tu sei vecchio, e papà tu non ce la fai, e papà ormai. E allora poi si è presentata l'occasione di andare, andiamo lì, papà devi venire anche tu, chissà se ce la fai. E io devo dire la verità, quando mi sono approcciato a quella parete, nemmeno io ci credevo di farcela, perché veramente quegli appigli sono piccolini e scivolosi. Però poi piano piano mi sono fatto coraggio e alla fine ce l'ho fatta. Ed è stata un'immensa soddisfazione per me guardare lo stupore e la sorpresa dei miei figli di vedere che loro padre era ancora vivo. Eh sì, io credo che sia successo a molti di noi di fare qualcosa del quale si stavano pentendo mentre lo stavano facendo, o che si volevano rimangiare le parole ma non era possibile. Una cosa del genere è successa ai discepoli. In Matteo al capitolo 14 al versetto 22 è scritta una storia molto particolare. Era appena successo la moltiplicazione, un grande miracolo, che con una spesa proprio minima hanno mangiato un sacco di persone, perché Gesù aveva pregato e aveva moltiplicato quello che c'era da mangiare. E poi Gesù si è messo in disparte a pregare e ha detto ai discepoli: andate avanti che io mo vengo. E così si è fatta notte, si è fatto buio, ma io vorrei leggervi la storia. In Matteo 14 dal versetto 22 è scritto così, si è spento, no, è scritto così: frattanto la barca era già da molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia, più o meno le tre di notte, le quattro di notte, Gesù andò verso di loro camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma. E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro gli rispose: se sei tu, comandami di venire sull'acqua. Ed egli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento forte, ebbe paura e cominciò ad affondare e gridò: Gesù, salvami. E questa è una storia molto, molto chiara, molto semplice, non è che c'è niente da capire. I discepoli, Gesù li aveva mandati avanti e erano partiti che era tutto tranquillo, tutto sereno, e si sono trovati in mezzo a una tempesta. E Gesù, che era in ritardo, aveva perso l'ultimo traghetto per andare dall'altra parte, ha pensato bene, visto che era il figlio di Dio: beh, ora mi faccio una camminata. E si è fatta una camminata sull'acqua. Quanti di voi ci credono che Gesù ha camminato sull'acqua? Abbastanza. Io per me stesso, quando penso di essere infallibile, dico Stefano, prova a camminare sull'acqua e ti rendi conto veramente di qual è la tua dimensione. Gesù ha una dimensione divina, Gesù è il figlio di Dio, Gesù è qualcosa che va al di sopra di quello che noi possiamo immaginare e pensare. E i discepoli che erano in mezzo a questa tempesta hanno visto Gesù e si sono spaventati. Io credo che tutti quanti noi ci saremmo spaventati. E hanno iniziato, già stavano gridando per la tempesta, hanno iniziato a gridare ancora di più, a essere ancora più spaventati. E Pietro ha detto qualcosa, credo che poi si è pentito. Ha detto, Gesù, se sei tu, dimmi di venire. Io penso che gli altri discepoli hanno pensato, ma questo si è fulminato proprio. Cioè, come si fa a dire, se sei tu, chiedimi di venire? Però Gesù l'ha preso sul serio a Pietro e ha detto, vieni, vieni. E Pietro ha preso ancora più sul serio Gesù ed è andato. E poi abbiamo letto la storia che ha camminato anche lui sull'acqua. Che cosa ha a che fare questa storia con noi? Beh, molto di più di quello che noi pensiamo. Quella barca rappresenta la nostra vita, e attraversare il lago rappresenta il percorso della nostra vita, e non sempre il nostro percorso di vita è semplice, tranquillo. Qualche volta c'è il mare calmo, ecco, per il resto delle volte c'è tempesta, e le tempeste sono improvvise, sono forti e non ci si abitua mai. Nessuno che è in mezzo al mare o è stato in mezzo al mare, in una barca, in una tempesta, ha detto, ma vabbè, tanto non è niente come quella dell'altra volta, perché ogni tempesta mette a rischio, a repentaglio la tua vita. E le nostre tempeste sono le viviamo sulla nostra pelle, sono le nostre difficoltà nel nostro matrimonio, le nostre difficoltà con il lavoro, le nostre difficoltà con i nostri figli, le nostre difficoltà con i nostri genitori, le nostre difficoltà con qualche vizio, con qualche problema, le nostre difficoltà con le nostre paure. E periodicamente, almeno a me, io vedo che succede così, che periodicamente si riaffacciano delle paure, si riaffacciano delle tempeste, si riaffacciano dei periodi che tu vorresti morire per un poco e poi ritornare di nuovo. E forse i discepoli volevano anche tornare indietro, ma non riuscivano a prendere nessuna direzione. E quando noi siamo nelle tempeste, e quando noi siamo presi dalle nostre paure, in quel momento abbiamo la possibilità più chiara di vedere in una maniera straordinaria Gesù. Perché i discepoli avevano visto tante volte Gesù, ma in quella tempesta l'hanno visto in maniera straordinaria, Gesù che camminava sull'acqua. Questa mattina tu hai la possibilità, nella tua tempesta, nella tua situazione, nel tuo percorso di vita, di vedere Gesù in una maniera straordinaria. E sai perché? Perché Lui ci tiene a farsi vedere. Lui non vuole nascondersi, Lui non vuole andare via, non vuole fare a meno di te e a meno di me. La Bibbia dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato Gesù affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Gesù ci tiene a incontrarti. Che sia un momento facile, che sia un momento difficile, che sia un momento semplice, che sia un momento complicato, non ha importanza. Gesù ci tiene a incontrarti e per incontrarti è disposto anche a camminare sull'acqua. Se tu senti qualcosa nel tuo cuore, se tu hai sentito che le canzoni che hai ascoltato non erano come le canzoni della radio, del Festival di Sanremo, ma c'era qualcosa di più dentro che ha toccato il tuo cuore. Se tu hai letto queste parole e senti che c'è qualcosa di più, ebbene quello è Gesù, quello è Gesù. Perché nessuno di noi ha poteri magici, ma Gesù è il Figlio di Dio e Gesù vuole rivelarsi alla tua vita. E se tu lo vedi, Lui ti può parlare. E se tu lo cerchi, puoi ascoltare la sua voce. Ed è proprio quello che è successo a Pietro. Pietro a un certo punto ha detto: Signore, se sei tu, dimmi di venire. Io per tanto tempo ho pensato che fosse una cosa stupida che ha fatto Pietro. Io non so quanti di voi si sono trovati in mezzo al mare mosso. Io mi sono trovato qualche volta andando a pescare con papà. In mezzo al mare mosso. E quando c'è il mare mosso, quello che tu fai, ti attacchi alla barca o alla barchetta o a quello che hai e cerchi di stare più ancorato possibile per non essere sbalzato fuori. E Pietro dice: se sei tu, dimmi di venire. Ma sapete che quello che ha detto Pietro è l'unica cosa sensata che tu e io possiamo fare? Perché molti di noi, tutti, siamo pronti a dire o a fare: Signore, questa è una situazione difficile, aiutami. Rimanendo nella nostra barca, rimanendo nella nostra sicurezza, rimanendo nel controllo della situazione. Così che Gesù è fuori dalla barca e noi siamo dentro. E Gesù è talmente buono che chissà quante volte ti ha aiutato, a me un sacco di volte. Ma sai che cosa c'è di vero? Che dopo di quella tempesta, dopo di questa tempesta, ce ne sarà un'altra. Perché la vita che ti porta da una sponda all'altra è piena di tempeste. Non ti aspettare qualcosa di diverso, perché il diavolo è venuto per rubare, ammazzare e distruggere. E lo farà in tutti i modi, e lo farà con tutte le sue forze. E Pietro, che era pescatore, che aveva visto tante tempeste, sapeva che quella non sarebbe stata l'ultima. E sapeva che anche se si fosse risolta quella tempesta, di nuovo sarebbe ritornato in difficoltà, di nuovo sarebbe ritornato in una situazione di bisogno. E forse tu hai appena superato una tempesta, ma stai tranquillo che ce n'è un'altra che ti aspetta. E non serve che te lo dica io, perché la vita te l'ha insegnato fino a oggi. Quello che fa la differenza è dire: Gesù, se sei tu, dimmi di venire. Perché questo significa non più superare le tempeste, ma significa vivere al di sopra delle tempeste. E questo noi lo possiamo fare solo quando usciamo dalla nostra barca, quando andiamo verso Gesù, quando lasciamo il controllo della nostra vita e lo diamo a Lui, quando crediamo che Lui è il Figlio di Dio e che ha dato la sua vita per noi, che è morto ed è risorto per i nostri peccati e gli offriamo la nostra vita. Questo simboleggia quello che Pietro ha fatto, il dire: Signore, se sei tu, dimmi di venire. Questa mattina io non lo so che tempeste ci sono nella tua vita. Forse sei momentaneamente in porto, prima o poi uscirai, ma quello di cui hai bisogno è di vedere Gesù, di ascoltare la sua voce e di dirgli: Signore, se sei tu, dimmi di venire. È Gesù che è al di sopra ed è al controllo di ogni cosa, ti dice: vieni. Ti dice: vieni, perché non vuole soltanto risolverti il problema, vuole diventare il tuo Signore e vuole insegnarti a vivere nei problemi con Lui per la sua gloria e per l'onore del suo nome e l'avanzamento del suo regno. E questo è qualcosa che ci appartiene. Questo è qualcosa che ha a che fare con ognuno di noi, perché ognuno di noi ha detto: Signore, aiutami, in un momento di difficoltà, in un momento di bisogno. Ma quanti di noi hanno detto: Signore, se sei tu, dimmi di venire? E quanti di noi sono scesi dalla barca per andare verso Gesù? Questo fa la differenza. Questo è un punto di svolta. Questo è quello che apre una vita straordinaria. Una vita che ti fa camminare sulle acque. Signore, se sei tu che mi stai parlando, dimmi di venire. Questo è quello che Gesù si aspetta di ascoltare da me e da te. È quello che Lui è pronto a dire, e dire: vieni. E sapete che quello che è successo con Pietro è successo con me e può succedere con ognuno di voi, che il Signore ti fa camminare sopra le acque. E quando tu ti ritrovi a riaffrontare le stesse situazioni, le stesse problematiche, la stessa moglie, i stessi figli, lo stesso marito, lo stesso lavoro che ti porta tanta angoscia, lo stesso vizio che ti fa così soffrire, tu ti rendi conto che non hai più bisogno di gridare e di avere paura, perché Gesù lo ha messo sotto i tuoi piedi. E questa è un'occasione meravigliosa che noi abbiamo questa mattina, di dire: Signore, se sei tu, dimmi di venire, e poi prendere il coraggio e prendere la forza di andare da Lui. C'è un protagonista nascosto in questa storia, un protagonista occulto che non si vede tanto, ma che determina un sacco di cose, e questa è la paura. I discepoli avevano paura della tempesta, avevano paura quando hanno visto Gesù, avevano paura quando hanno visto Gesù camminare sull'acqua. Pietro ha avuto paura quando stava camminando sull'acqua, invece di essere meravigliato e di dire: vedete che io sto camminando sull'acqua, no, ha iniziato ad avere paura. La paura è qualcosa che prende il nostro cuore, che controlla la nostra vita. E quando le situazioni si fanno complicate, è il primo sentimento che ci assale: avere paura di non riuscire, avere paura di non farcela, avere paura di perdere, avere paura. E la soluzione non è essere coraggiosi, perché o hai paura o sei coraggioso. La soluzione l'ha data Gesù in una maniera molto, molto semplice. Gesù gli ha detto a Pietro: uomo di poca fede, perché hai dubitato? In altre parole, Gesù ha detto a Pietro: non ha importanza se hai paura. È comprensibile che tu abbia paura, perché è qualcosa al di fuori della tua portata, quello di camminare sull'acqua. E forse non puoi avere coraggio, ma una cosa puoi avere: fede. Una cosa puoi fare: credere. E questa mattina tu puoi pensare, puoi vivere tutto questo in maniera al di fuori della tua portata. Lo è, benvenuto, e al di fuori anche della mia portata. Ma una cosa puoi fare: credere. Credere che è Gesù che ti sta parlando. Credere che è Gesù che ti sta chiamando. Credere che è Gesù che ti mette al di sopra di quelle acque. Credere che non sei destinato a qualcosa di normale, ma sei destinato a qualcosa di divino e di soprannaturale. Gesù ti dice, mi dice: vieni. E in quel vieni c'è tutta la sua potenza, tutta la sua gloria, tutta la sua divinità e tutta la sua grazia che abbraccia la nostra vita. Questo è quello che stanno testimoniando con il battesimo. Stanno dicendo proprio: sì, Signore, io ho capito che sei tu che mi hai detto di venire e io vengo. Vogliamo alzarci in piedi? Signore Gesù, io ti voglio ringraziare per la tua parola, perché non ci mette di fronte ai nostri limiti, alle nostre difficoltà, ma ci mette di fronte alla tua divinità, alla tua grazia, al tuo amore. E io ti prego che ognuno di noi questa mattina possa guardare non al fatto che sta affondando, ma al fatto che tu dici: vieni. E Signore, dacci la forza e il coraggio di ascoltare la tua voce, capire la tua volontà ed essere ubbidienti per la gloria del tuo nome. Grazie Gesù. Amen.